Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera a quanti ci ascoltano. Questa sera parliamo della grande crisi, parliamo della crisi anche un po' per guardare avanti, sperando di parlarne un po' al passato. Il popolo e gli dèi, così la grande crisi ha separato gli italiani. È il titolo di un libro scritto da Giuseppe De Rita e Antonio Gardo. Buonasera Antonio Gardo. Buonasera. Antonio Gardo è giornalista, scrittore, dirige il sito www.nonsprecare.it. Non sprecare è stato anche un libro di successo scritto alcuni anni fa, un altro libro è Basta poco, e questi servono un po' a indicare qual è la filosofia di Antonio Gardo. Però oltre che un libro, un sito, è diventato anche un po' un movimento, Antonio Gardo. Beh, è diventata una grande comunità che segue questa vision e ritiene che attorno all'idea di non sprecare si possa immaginare perfino quello che gli economisti chiamano un nuovo modello di sviluppo, che significa più crescita, per tutti però, non per i soliti noti. Ecco, questo libro parla proprio del come riavviare la crescita e soprattutto quale crescita. Scritto appunto con Giuseppe De Rita, presidente del CENSIS, uno dei grandi interpreti della realtà italiana, affronta un po' i tre nodi di fondo dei rischi che si sono affrontati negli ultimi anni: il potere dei mercati, il furto della sovranità, la crisi della rappresentanza. Tre grandi elementi che segnano, scrive appunto, si legge appunto nel libro, che segnano il nostro tempo. E nel prologo si dice: siamo sopravvissuti alla grande crisi che rischiava di travolgersi grazie a una delle migliori qualità, la capacità di adattamento. Allora, da una parte l'analisi dei problemi, dall'altra l'indicazione di una soluzione. Antonio Gardo, in quale linea si muove questo libro, questo rapporto anche con Giuseppe De Rita? Beh, innanzitutto gli italiani sono riusciti a sopravvivere, a farcela ancora una volta, e devo dire hanno dimostrato la loro migliore qualità, che appunto è quella di adattarsi. Zitti zitti abbiamo fatto una rivoluzione che riguarda gli stili di vita, riguarda i nostri consumi. Lei pensi soltanto che in questo momento circa il 75% delle famiglie italiane ha ridotto gli sprechi alimentari, è un esempio solo per indicare appunto come sono cambiati gli stili di vita. Allo stesso tempo però ci stiamo scontrando con un grande tema, ed è il tema dell'impoverimento del ceto medio, che significa poi l'impoverimento del paese, non dimentichiamolo, perché l'Italia è un paese di ceto medio. L'impoverimento e anche la polarizzazione, sempre più ricchi pochi, sempre meno ricchi tanti, che è un fenomeno che in qualche modo è il contrario della leva sulla quale si è costruito tutto il ciclo del benessere in Italia, cioè di un benessere diffuso. Un paese dove la ricchezza si concentra sempre di più, e c'è un dato che nel libro noi riportiamo, cioè l'1% della popolazione in Italia controlla il 10% del reddito. Pensate che solo pochi anni fa, negli anni 80, era il 7% del reddito. È un paese squilibrato, è un paese che non può funzionare. Ecco, in questa prospettiva, proprio nel libro è scritto: il padrone di un'azienda una volta non aveva uno stile di vita troppo differente da quello del suo operaio, con il quale poi si scontrava secondo i canoni del conflitto di classe. Attualmente, andiamo un po' oltre, il capitalismo finanziario ha creato una classe di super ricchi, una classe appunto che è sempre più separata dalla realtà di un paese che voi descrivete come un paese un po' costruito sulla sabbia, un popolo della sabbia. Questa è un'immagine sicuramente efficace di De Rita, un popolo sulla sabbia che però ha bisogno di riaggregarsi, ha bisogno di ritrovare una forza all'interno. Com'è possibile ritrovare una forza per una riaggregazione dopo che c'è stato questo sfarinamento anche della realtà sociale? Dobbiamo ripartire dalle nostre qualità, dalle nostre risorse, da quella idea di comunità sulla quale abbiamo costruito l'Italia migliore. Dobbiamo ripartire da quello che abbiamo derubricato in termini di valori, anche se vuole di punti di forza del paese. Gliene cito due che sono secondo me molto significativi. Vede, quello che ha vinto purtroppo è il capitalismo finanziario. L'Italia invece è un paese di capitalismo manifatturiero, è un paese di capitalismo molecolare, è un paese di capitalismo fatto di tante piccole, grandi e medie aziende, è un paese di fabbriche. Pensi che bella parola, sembrava scomparsa. Dobbiamo ripartire da lì E devo dire che questo non è un libro sul declino, perché non è un libro che racconta solo i problemi dell'Italia. Questo, come lei ha detto, è un libro che dà anche delle prospettive di cauto ma significativo ottimismo. A proposito di imprese, significherà pur qualcosa che un quarto delle imprese in Italia in questo momento sono delle imprese di donne. Ecco una delle grandi leve sulle quali si può immaginare da dove ripartire per un nuovo ciclo di sviluppo, che è quello di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di più ricchezza da distribuire in modo più giusto. Ecco, donne ma anche, voi dite, extracomunitari e giovani, quelli che sono stati esclusi dall'attuale o dal precedente ciclo di sviluppo, appunto donne extracomunitarie e giovani che proprio perché sentono la necessità di ritrovare uno spazio, ecco, che acquisiscono anche una logica imprenditoriale. In Italia è forse difficile fare impresa, ma c'è nel DNA degli italiani la volontà di fare impresa, di costruire, di mettere qualcosa di nuovo, di essere creativi. Ecco, guardi, quindi le voglio dare anche qui un numero che secondo me è molto significativo e fotografa la situazione. Conosciamo tutti la nostra tragica disoccupazione giovanile, però forse sappiamo meno che in Italia sono iscritte alla Camera di Commercio quasi 700.000 imprese di ragazzi sotto i 35 anni. Lei ricordava che io dirigo un sito che si chiama nosprecare.it. Una delle battaglie che stiamo facendo attraverso il sito è come favorire la nuova imprenditoria giovanile, di come favorire le opportunità di lavoro per i giovani. Opportunità, attenzione, che esistono e che non cogliamo spesso, che non sappiamo sfruttare. Le faccio anche qui qualche esempio molto pratico e molto concreto. Immagini solo se riuscissimo a mettere a sistema e a valorizzare tutto quello che abbiamo in termini di risorse del Made in Italy, dalla filiera agroalimentare al turismo. Pensi solo un secondo se si facesse veramente qualcosa su Pompei. Bene, questo produrrebbe lavoro, produrrebbe reddito, produrrebbe nuova crescita economica. E invece cosa facciamo? Lo abbiamo raccontato proprio sul sito Non Sprecare. Gettiamo milioni di arance sulle piante che distruggono un pezzo dell'economia siciliana, dove abbiamo le statistiche record sulla disoccupazione. Quando parliamo dei giovani dobbiamo uscire fuori dalla retorica e dobbiamo dire una volta per tutte che questo è un sottosistema del paese, ovvero l'imprenditoria giovanile e l'occupazione giovanile, sulla quale l'Italia potrà, come io mi auguro, conoscere un nuovo ciclo di sviluppo. E questo ovviamente è un'opportunità che i giovani dovranno cogliere. Io ho due figlie che sono ventenni. Bene, il paese, il nuovo paese dovranno farlo loro, certo non lo faremo noi. Ecco, proprio il libro si chiude con un richiamo molto forte alla fiducia, citando Luigi Einaudi, che scriveva: «Ho fiducia nella virtuosa presenza di artigiani, di coltivatori, di poderi, di piccoli e medi imprenditori, con la loro quotidiana fatica e la loro spontaneità del rischio». E voi dite: una fiducia ampiamente ripagata da decenni di sviluppo del paese, costruito sulla leva di una doppia ricchezza, quella della pluralità dei soggetti e della comunità e quella dell'energia individuale. Ecco, mettere insieme la pluralità, cioè ritornare a fare impresa, che forse anche vuol dire organizzare poi il lavoro, dare la possibilità a tutti di partecipare secondo le loro possibilità e cercare di dare spazio alla creatività. È con questa fiducia che possiamo guardare in avanti, guardare anche a una politica che voi dite ha un ruolo centrale, un ruolo fondamentale e che finora ha forse mancato molti appuntamenti. Una politica, noi lo scriviamo in modo molto chiaro e molto esplicito nella prima parte del libro, che ci auguriamo, anche per effetto di un ricambio generazionale che ormai si è avviato, sia meno rozza, più competente, più trasparente e che sprechi meno soldi pubblici e meno soldi degli italiani. Lei ha citato Einaudi, che noi richiamiamo nel libro, e anche le risorse di questo paese. Io le dico che l'artigianato, per esempio, è una grandissima opportunità sia in termini di imprese sia in termini di attività, e non dobbiamo riferirci soltanto all'artigianato classico. Nel libro, per esempio, raccontiamo uno snodo di grande innovazione che è l'artigianato digitale. Lei veramente pensa che la Silicon Valley devono farla solo gli americani, o non la possiamo fare anche noi che abbiamo tanti talenti, tanti, ancora una volta torno, giovani o meno giovani? giovani che sono in grado di fare aziende piccole, grandi e medie, in grado di competere sui mercati internazionali, che attraverso tutte le opportunità che oggi il web crea e mette in campo, attraverso l'innovazione, possono creare lavoro, crescita, possono creare cioè quello che ci serve, un nuovo ciclo di sviluppo, che non è un ciclo di sviluppo, come dire, che nascerà per caso, nascerà da questa energia che è già in campo, e qui nasce il mio ottimismo, anche se ovviamente ho tutta la preoccupazione e l'angoscia rispetto a quello che, alla fase che il paese sta vivendo. Però se, poiché mi capita di girare molto l'Italia, di vederla molto da vicino, devo dirle che anche in questo settore di grandissima innovazione c'è una vera scossa che si sta in qualche modo maturando nel paese. Stanno nascendo addirittura dei distretti che si fondano sull'utilizzazione dell'innovazione tecnologica legata all'economia digitale. Ripeto, possiamo fare una nostra Silicon Valley. Pensi questo quanto cambierebbe il destino dell'Italia. Purché, attenzione, non cadiamo e usciamo da questa trappola in base alla quale riteniamo che il capitalismo, come ci hanno detto da 30 anni gli anglosassoni, che hanno un modello diverso di capitalismo, sia quello finanziario. Non è quello il nostro capitalismo, il nostro è un altro capitalismo che per la verità è stato un modello e può tornare ad esserlo nel mondo. Ecco, in questo senso il capitalismo ha un senso se il capitale diventa uno strumento a disposizione delle persone, della creatività, della forza costruttiva, della capacità anche di aggregazione delle persone, e voi lo sottolineate, se si riesce a superare quello che chiamate l'antagonismo errante, quella voglia sempre di dire di no, di opporsi, ma guardare soprattutto in avanti, cercando di costruire quelle realtà che possono dare spazio, e di spazio ce n'è, anche per dare fiducia ai giovani in Italia, e di fiducia nei giovani ce ne vuole molta. Antonio Gaido, possiamo chiudere qui, un'ultima parola? Il futuro si costruisce molto su questa leva di ottimismo e, se vuole, anche di sogno, di utopia. Se riusciamo in qualche modo a girare la testa e a metterla in avanti, usciremo anche da questo cono d'ombra in cui siamo entrati, che è un elemento che ha legato l'impoverimento del ceto medio alla crescita che raccontiamo nel libro, di un malessere e, se vuole, anche di una forma di ribellismo senza sbocchi, di un dire sempre no comunque a qualsiasi modernizzazione, a qualsiasi cambiamento, quasi come se ci spaventasse. Eppure le ricordo che noi siamo stati un paese, e lo siamo ancora se andiamo a vedere la realtà da vicino, di grande innovazione, di grande cambiamento e di grande voglia di futuro, che possiamo ancora una volta tornare a cavalcare. E indubbiamente anche riconoscere, conoscere quanto si è fatto in passato, i propri errori e le difficoltà, e questo libro lo fa con un'analisi molto attenta, può voler dire cercare di affrontare con maggiore determinazione e con maggior fiducia il futuro. Grazie ad Antonio Gaido, autore con Giuseppe De Rita del libro Il popolo e gli dèi, così la grande crisi ha separato gli italiani, edito da La Terza, sono 112 pagine per 14 euro. Grazie anche a Luca Cremonese in redazione, a Peter Bescapè in regia. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.